scemo, stanotte non dormi, tu chiamali sogni, ma sono ricordi. Scrivi le scemo, è colpa del vino, se basta uno sguardo e ritorni bambino. Ci vuole coraggio nel 94 ad essere bacio. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in TV. E pedano, uccidono, sti cazzo di dentro la bocca un ritmo cubano, il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. Scrivi le scemo, tre parole in croce, poi scappa lontano, poi perdi la voce. Scrivi le scemo, finale per quella puntata della televisione interrotta da torri che andarono in fiamme e bimbi che facevano domande. Ma dove sei? Dicono che sei un po' cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in TV. E pesano, uccidono, sti cazzo di ti amo, ballano dentro un ritmo cubano, il sangue, le lacrime, un grido blasfemo, tu fatti coraggio, poi scrivi le scemo. E metto Bon Iver se sono giù e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu. E scusa per l'ansia, mi mangia da dentro e per il cane che scappa con il cancello aperto. Vedi, non sono bravo a fare restare chi mi vuole bene, aspettare e con te mi sa che